Letture di Radio 24. Sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore, Bruno Pischedda commenta Costruire il nemico, la nuova raccolta di saggi di Umberto Eco, pubblicata in questi giorni da Bompiani. Molti anni fa, ormai 15, nel recensire su questo giornale il libro Kant e l'ornitorinco, Armando Massarenti insinuava un'ipotesi garbata, che cioè Umberto Eco, col mutare dei tempi, stesse mutando, anche filosoficamente, gnoseologicamente. Non più semiologia, ma discipline cognitive. Sì, ancora Charles Peirce e Willard Quinn, ma soprattutto Hilary Putnam e Diego Marconi. Che insomma fosse sul punto di trasferire la scienza dei segni, con il suo ricco bagaglio terminologico e categoriale, sotto il cielo di un più acconcio e pragmatico realismo. E tutto ciò senza colpo ferire, evolvendo sotterraneamente, facendo vista di imperterrita continuità intellettuale anche dove le innovazioni sembravano prevalere. Il discorso era già allora convincente e tanto più necessario per una figura come Eco, onusta di sapere quanto restia a tematizzarne davvero le diverse e complesse implicazioni. Pure, se applichiamo una simile diagnosi al Costruire il nemico, dove sono raccolti scritti miscellanei di ordine civico e culturale, ci possiamo accorgere che insieme a strategie di adattamento sottile e progressivo convivono impulsi di regressione nostalgica. Almeno sul terreno della letteratura, che qui ci interessa in modo prevalente, il richiamo delle esperienze adolescenziali appare alquanto sovradimensionato rispetto agli acquisti e alle posizioni assunte nella maturità. A colpo d'occhio è sempre lo stesso Eco, che con limpidezza erudita affronta i temi più scottanti del nostro oggi: xenofobia, rapporti tra verità assoluta e relativa, dotazione spirituale dell'embrione, mondo dei media e rumore, proverbialità logora e antiutopia. Tutte le prerogative esegetiche dell'autore dalle molte anime sono richiamate in bella mostra sulla pagina, così che il medievista di sempre consuoni con l'avanguardista di ier l'altro, il causeur sopraffino con il geografo dell'immaginario, con il bibliofilo ossesso. E senza che venga mai meno il gusto sapido del racconto, della parodia e della battuta salace che ciascuno sa invitare informalmente al desco della scienza. È con indulgente ironia, per esempio, che egli torna agli anni in cui con Camilla Cederna e imprecisi amici fiorentini istituiva il premio Fata, opposto al premio Strega. Quando appioppava a Pasolini il titolo di peggior romanziere della stagione e Pasolini a rispondere con una lunga lettera spiegando che no, che non era un giudizio corretto. E con più insidiosa disinvoltura ripercorre la medesima fase, secondo argomenti che non erano degli avanguardisti, che non erano i suoi. Il distinguo tra straniamento radicale, gravato di eccesso non proficuo, e sperimentalismo. L'idea che giunto il 68 le versioni estetiche non fossero più assimilabili alle sovversioni politiche. E insomma, tutto il contrario di quanto si dibatteva allora, con gran sfoggio di polemiche in versi e in prosa, progetti di attivismo univoco che si sprecavano su una rivista come 15 e che si sarebbero protratti sino al tardo movimento bolognese del 77. A simili latitudini ha ragione Massarenti. L'atteggiamento adattivo, cautamente volto all'oggi e a ragionevoli, sensate revisioni, ha una certa preminenza in Eco. Però quando si arriva al tema del romanzo popolare cade nel volume un accento diverso. La rilettura dei feuilleton più osannati dal pubblico dei semplici innesca un potente moto a ritroso, quasi un rimpianto di totalità e di predisposizioni vergini perdute. Hugo è il punto di vista di Dio, i suoi elenchi defatiganti da intensi come puro flusso musicale. Dumas su Pensons du Terre e la tecnica mirabolante dell'agnizione o riconoscimento sono in definitiva i meccanismi classici della narrativa, anzi ne rappresentano le strutture ancestrali, sempre latrici di una travolgente energia mitopoietica. È vero che con un sussulto di criticismo adulto e talora pregiudiziale, Eco nega a siffatti romanzi il dono della problematicità nel mondo che descrivono e nell'intreccio che lo organizza. Ed è vero che la lettura allucinatoria delle grandi appendici ottocentesche può avvenire per lui solo prima, come tappa pedagogica predisponente alla degustazione successiva delle avanguardie novecentesche. Solo sul noto e sul seriale, lascia intendere, si può agire in modo rivoluzionario, verso l'inedito. Ma intanto la passione e il divertimento si indirizzano là, sgorgano dalle origini, secondo procedure di chiaro rientro psichico. Ricordo che quando ero ragazzo, vedete che sono trascinato dal mio autore e parlo ormai come lui. E di là muovono verso romanzi ormai post-postmoderni, limpidamente restaurativi in sostanza, di cui il cimitero di Praga fornisce un esemplare documento. Oggi l'eco più immediato e sincero è questo. L'altro, il Gioisciano, già adepto del gruppo 63, ne rappresenta il precipitato sedimentario, l'esito ulteriore e testimoniale. E in quanto a Joyce, perché fare di Carlo Linati, precoce e isolatissimo apologeta dell'irlandese, un bolso ripetitore di luoghi comuni? Chi leggesse l'articolo a cui Eco ci rinvia troverebbe parole di ammirato apprezzamento. L'Ulysses, per Linati, è opera d'un ingegno potentissimo, straordinariamente dotato di culture, le più diverse, fantasia, facoltà analitiche e verbali di primo ordine. Perché intrupparlo insieme a ignavi e razzistici notisti come Malaparte, Piovene, Marinetti, per tacere degli altri, ancora troppo giovani o imbambolati? Non si tratta qui di erudizione, ma di opportunità storico-critica. Avete ascoltato la lettura di un commento di Bruno Pischedda al nuovo libro di Umberto Eco, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Sotto il peso delle decine di grattacieli costruiti negli ultimi anni, Bangkok sta lentamente sprofondando nel mare. Secondo gli scienziati, nel 2030 la capitale della Thailandia sarà completamente sommersa dalle acque. Il villaggio di Khun Samutkin è stato il primo a finire sott'acqua. Più volte le ultime due generazioni di abitanti si sono trasferite finché il vecchio tempio, il più rialzato del borgo, non è rimasto l'unico isolato avamposto di un antico e incantevole istmo tropicale in mezzo al golfo della Thailandia. Oggi i suoi tetti scintillanti e le statue dorate dei Buddha sono a mezz'ora di barca dalla terraferma, dove ogni giorno si accorcia la distanza tra il mare e una delle più grandi aree urbane metropolitane dell'Asia e del mondo, Bangkok. Gli scienziati thailandesi e i loro colleghi occidentali che studiano il fenomeno dei riscaldamenti climatici hanno lanciato l'allarme fin dagli inizi degli anni Ottanta. Ma da quando lo tsunami del 2004 ha inghiottito più a sud le coste di Phuket, l'accelerazione del processo di inabissamento è stato talmente rapido da portare le lancette del prossimo impatto sulla città degli angeli di parecchi anni più indietro del previsto. Il 2030 è un tempo drammaticamente breve, anche solo per immaginare una gigantesca dislocazione della megalopoli da 12 milioni di abitanti, sorta sulle rive di Chao Phraya, il grande e placido fiume che divide Bangkok in due, prima di sfociare nel golfo omonimo. L'ipotesi che la capitale thailandese si trasformi presto in una moderna Atlantis è stata rilanciata in questi giorni dagli esperti interpellati dal quotidiano francese Le Monde, anche se la progressione dell'inabissamento delle falde sotterranee è un fenomeno vecchio almeno quanto alla proliferazione selvaggia di grattacieli e industrie. La massiccia edificazione che vede a rischio di inabissamento quasi un milione di immobili residenziali cominciò negli anni 50 con il riempimento e la cementificazione dei celebri Klong, i canali che diedero alla metropoli il nomignolo di Venezia dell'Est. Da allora il sottosuolo argilloso ha perso la sua rete naturale di drenaggio delle acque, preziosa durante i monsoni, quando i lunghi mesi di precipitazioni rendono la terra soffice e fangosa. Il peso dei grattacieli, oltre agli 11.000 pozzi che pompano 2 milioni e mezzo di tonnellate d'acqua dolce l'anno, hanno fatto il resto, inseccando e alterando la base già friabile del sottosuolo, fino al punto da intasare ogni via di deflusso verso il mare. Oggi, in alcuni punti, Bangkok affonda al ritmo di oltre 10 centimetri l'anno, con una media tra 1,5 e 5,3 nelle aree dove il terreno è più rialzato. Basta considerare il fatto che la città si trova a meno di 2 metri sopra il livello del mare per comprendere il livello di allarme raggiunto. Bangkok non è infatti solo la capitale del regno, ma il cuore pulsante dell'intera economia nazionale, con oltre il 70% delle attività finanziarie e commerciali concentrate in due aree urbane tra le più vicine al mare, come Sukhumvit e Siloam. Tra le ipotesi di salvataggio c'è il mega progetto di un muro lungo 100 chilometri da costruire attraverso il golfo, ma molti esperti mettono in guardia da una spesa, almeno 3 miliardi di dollari, che potrebbe rivelarsi inutile, oltre che dannosa. Lo stesso re della Thailandia, il venerato Bhumibol Adulyadej, ha più volte invitato i suoi sudditi a non sottovalutare il fenomeno delle alluvioni e dell'inabissamento, suggerendo di creare una diversione delle acque dentro grandi reservoir. Altri hanno consigliato invece di ricostruire le foreste di mangrovie che un tempo assorbivano l'acqua del golfo e di eliminare gli enormi allevamenti di gamberetti che occupano migliaia di ettari di ex terraferma. Ma gli esperti sembrano sempre più unanimi nel temere che sia ormai già troppo tardi per ogni soluzione tecnica, compresa la riapertura degli antichi canali cementificati e il totale blocco di ogni licenza edilizia. Il fatto è che il mondo degli affari, specialmente immobiliari, è così influente che le notizie sull'inabissamento della città degli angeli sono assai rare su giornali e TV nazionali. Anche le grandi speculazioni edilizie lungo la costa continuano indisturbate. Così che una certa fatalistica e miope mentalità commerciale asiatica ha trasformato il grande tempio sommerso di Khun Samut Khin, invece che in un monito, in una esotica attrazione turistica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Raimondo Bultrini, Bangkok, gas, serra e cemento, così la megalopoli sprofonda nel mare, dalla Repubblica del 20 luglio.